Storiacce di Raffaella Calandra. Dopo l'arresto di Giovanni Brusca, mio fratello è stato capomandamento di Cosa Nostra, cioè mio fratello ha gestito la Sicilia. Una volta che lui viene arrestato, ho preso io quel potere. Ecco come si arriva a scalare i vertici di Cosa Nostra. Ecco raccontato dall'interno come una donna divenne in Sicilia la prima e più potente boss in gonnella, capo di un mandamento. Anni dopo un'altra è stata arrestata mentre provava a riorganizzare l'intera Cosa Nostra. E se la storia, anche quella delle mafie italiane, è fatta in prevalenza da nomi di uomini, cruciale è sempre stato però il ruolo delle donne nella compattezza dei clan, come nella trasmissione di certi codici. Loro possono garantire la continuità criminale o interromperla, e allora solo una di loro, una donna cioè che è stata una potente boss prima di saltare il fosso, può raccontare come era diventata cosa loro. E da qui parte questa puntata di Storiacce. Sono ormai le donne a comandare i clan della Camorra. Sono in realtà molti anni che le donne sono nelle gerarchie alte delle organizzazioni criminali. Un ruolo sempre più centrale, quello delle donne di Camorra. E la scelta è, in realtà è stata una scelta giusta da parte delle organizzazioni, perché hanno capito che le donne sono più interessate agli affari, meno interessate ai conflitti militari. Escono a testa alta, quasi un sorriso di sfida sulle labbra. Gestivano gli affari al posto dei mariti in carcere. Le donne avevano un ruolo di rilievo negli affari, cosa che non è insolita per la Camorra. 10 tutte insieme però, come è successo oggi, probabilmente non erano mai state arrestate. È un'operazione quasi storica perché va a colpire l'intero clan Giunto, tra cui una nutrita rappresentanza femminile. In questa operazione contro la famiglia di Camorra De Sarno, su 64 persone arrestate, 10 erano donne. Sicuramente una posizione influente, rivestita dalla signora di Trapani, che è stata pure tratta in arresto, derivante dalla sua caratura personale, frutto dei suoi legami familiari, sia personali che acquisiti. Palermo, l'ultima donna che aveva avuto il compito di riorganizzare Cosa Nostra, Mariangela di Trapani, figlia di un capomafia, moglie di uno storico boss, Salvatore Madonia, responsabile tra l'altro dell'uccisione dell'imprenditore Libero Grassi. Era lei al vertice del mandamento di Resuttana ed è lei il nome più importante dei 25 arrestati, a quanto ammette lo stesso procuratore di Palermo, Franco Lovoi. Negli anni le donne le abbiamo viste sedute a terra, vestite a lutto, a vegliare corpi coperti da lenzuola bianche, o gridare nella folla per acclamare l'ultimo boss arrestato. Loro possono invocare il perdono nelle guerre dei loro uomini, ma all'opposto possono anche impartire ordini di morte. Camminano fiere nelle strade dei loro paesi o restano chiuse nelle roccaforti delle loro case. Essere donna a sud di Gomorra è complicatissimo, ha scritto Roberto Saviano, ed è effettivamente così per la maggioranza. Ma ci sono anche donne che sono diventate più potenti, più spietate e più determinate dei loro padri, dei fratelli e dei mariti, e che li hanno sostituiti dopo l'arresto, pronte e capaci a prendere il loro posto. La più nota forse è Rosetta Cutolo, sorella del capo di quella che era la nuova Camorra organizzata. Ma sono state tante le donne negli anni ad aver garantito la continuità delle mafie. Una di queste, senza dubbio, è stata Giusi Vitale, la prima boss in gonnella di Cosa Nostra, arrivata a gestire un intero mandamento, nella stagione in cui trattava con Brusca, Bagarella e Messina Denaro. E proprio quando si torna a parlare del ruolo femminile all'interno delle organizzazioni criminali, ascoltiamo allora dalla voce criptata sua la scalata delle gerarchie dei clan, prima di diventare una collaboratrice di giustizia e fare un'altra vita altrove con i suoi figli, come raccontò già a Storiacce quando l'abbiamo incontrata in un appartamento del Viminale con i girasoli di Van Gogh appesi alle pareti. La sua voce è ovviamente criptata. Io non avrei mai pensato che sarei arrivata al punto di essere a capomandamento di una famiglia mafiosa. Da piccola tu, a casa tua, se vivi in un contesto dove c'avevo dei fratelli che comunque stavano facendo la loro vita sull'ambito malavitoso dell'associazione mafiosa, capisci, ti rendi conto, però un po' è come se lo annulli. vuoi vedere l'altra realtà che avevo di quei tre fratelli, comunque erano fratelli che mi volevano un bene dell'anima, che io amavo tanto spudoratamente, e vivevamo in una famiglia normale così. Però già senti nell'aria che comunque i miei fratelli stavano percorrendo una strada diversa dalla normalità di tutti i ragazzi di quell'età o di tutti gli uomini che man mano andavano crescendo. Ci faccia degli esempi anche concreti di che cosa, del momento, del modo in cui lei progressivamente è stata coinvolta dai suoi fratelli, tanto da arrivare a essere presente a riunioni con boss di calibro, capi proprio di Cosa Nostra. Sì, è vero, loro avevano molta fiducia in me, forse questo è il discorso che io poi mi sono ritrovata a vestire quel ruolo. Mi facevano crescere con il loro modo di pensare, il loro modo di fare, che era quello di vivere la vita di un ragazzo che cresceva e prendeva da loro, cioè tutto ciò che per loro mi davano io lo prendevo. Quindi automaticamente nasce sta stima nei miei confronti, la fiducia, il fattore che si fidavano tanto di me. Perché io ero sempre dietro a loro, io proprio crescevo con loro giorno dopo giorno, andavo, erano arrestati e io ero sempre presente ai colloqui, cioè non ero mai meno. Allora man mano lo dai un po' per scontato, perché poi ti ritrovi nella situazione che comunque i miei fratelli era uno arrestato, uno latitante, e io ero l'unica di cui loro veramente si fidavano sulle cose che dovevo raccontare a quello che era al carcere, a quello che stava latitante. Faceva la mediatrice nei messaggi. Sì, facevo da tramite. Quindi automaticamente alla fine, quando viene arrestato anche l'altro mio fratello che si trova latitante, io ero l'unica persona che realmente potevo prendere quel posto. Ma intanto perché ero a conoscenza, perché facendo da tramite, o vuoi o non vuoi, vieni a conoscenza di molte cose. E poi perché comunque loro non vedevano altre persone che non potesse essere io in quel momento. Lei ha raccontato delle tante riunioni che ha visto anche soltanto, o dei tanti personaggi che sono passati per casa sua. Tu non hai proprio la certezza che quella persona fosse Totorrino, fosse Bagarello, fosse Brusca, perché quando io andavo a trovare i miei fratelli, cioè o capitava che mi trovassi con uno di loro e arrivava qualcuno, a me non venivano mai presentati per la persona che era. Erano sempre evasivi. Però il peso di una persona e di qualcuno di loro all'interno di del gruppo era evidente, che rappresentavano la persona che tra quei gruppi era la più potente. Qual era l'atteggiamento che gli altri avevano nei loro confronti? C'era molto rispetto, però comunque sia si vede quando c'è una persona, per esempio quando c'è stato l'incontro che sono andata una volta a portare a mio fratello delle bibite, e loro poi in secondo tempo parlavano e stavano a lamentare che su Totò, cioè Pitto Torrina, si lamentava che Pino Provenzano, un trattore, si era presentato in veste di vescovo, vestito tutto con la tunica, cioè aveva dato un po' nell'occhio un personaggio comunque sia che ha la sua portata, e poi in un posto di campagna non è che sia meno appariscente, anzi, però magari lui camminava in quel modo perché si sentiva più sicuro. Cioè, veniva, se c'era un blocco di carabinieri non lo fermavano come potevano fermare alla semplice macchina comune con due uomini sopra. Una donna alle riunioni con Riina e Provenzano, una donna che trattava direttamente con Matteo Messina Denaro, come sentiremo tra poco, e gli assicurava la stessa continuità dei fratelli arrestati, negli affari, negli accordi, nell'imposizione del pizzo, perché cambiano le epoche, si modificano gli equilibri dentro i clan, ma il percorso che porta una donna al vertice dell'associazione mafiosa resta uguale. Affiancano padri, fratelli e mariti e poi diventano quasi naturalmente i loro successori. Così era stato anche per i Casalesi, come ci aveva raccontato all'epoca il giudice Oscar Maggio, già relatore della sentenza del processo Spartacus. Il ruolo delle donne in questo processo, per quello che attiene appunto alla clan dei Casalesi, vista ecco anche questa similitudine con la realtà siciliana, è in qualche modo paragonabile a quella della mafia siciliana, oppure piuttosto ci sono state figure più vicine a quelle di Rosetta Cutolo? sicuramente è un ruolo molto importante all'interno delle famiglie e delle vite, diciamo così, di questi soggetti che noi in qualche modo abbiamo cercato di ricostruire. Ed è un ruolo, diciamo, a volte un po' ancillare, per la verità, cioè nel senso che ci si preoccupa, insomma, di far studiare, insomma, i figli, cioè di creare, diciamo, anche dei meccanismi di separazione, insomma, dal territorio, diciamo, ci sono stati esempi tra virgolette anche positivi. Altre volte di vere e proprie, diciamo, come devo dire, soggetti che consigliano, diciamo, di vere e proprie, insomma, strategie, per cui per la verità sono emerse tante storie diverse, diciamo, tra di loro, e mi sarebbe difficile rintracciare un profilo univoco. Sicuramente ci sono stati casi neanche poi molto approfonditi in sede giudiziaria di donne che hanno comandato, diciamo, in qualche modo attraverso consigli e suggerimenti, insomma, però sono emersi forse un po' meno, diciamo, finora rispetto ad altre realtà, anche se stanno emergendo, insomma, più recentemente anche delle forme di collaborazione, diciamo, importanti, vissute, diciamo, da soggetti, diciamo, di sesso femminile, insomma. Però questo è più recente, leggermente più recente come dato. Ma qual è la vita di una donna capomafia? Come gestisce i suoi rapporti? Come si impone? E poi, avendo di fronte una donna che ora ti parla quasi come una qualsiasi mamma del suo menaggio familiare, ma che in passato, prima di essere collaboratrice di giustizia, è stata una potente boss, vi devo dire che vengono anche varie curiosità. Dove custodiva così tanti soldi? Come raggiungeva il fratello latitante senza farsi scoprire? Come comunicava con i Mamma Santissima di Cosa Nostra? Lo sentiremo direttamente da lei, da una ex donna boss, nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Pronto? Dove sei? Dai Menitti, abbiamo fatto irruzione, ma non c'è nessuno, sono tutti scappati, mi dispiace. Non tutti. Ci sono sempre state, nelle storie delle mafie, boss in gonnella. Donne che scalano i vertici dell'associazione mafiosa e prendono il posto di padri, mariti e fratelli, diventando a volte come e più spietati di loro. Le donne assicurano la continuità delle regole mafiose, trasmettendole ai propri figli, o possono interrompere questa catena sottraendo i bambini a quel modo di pensare per dare loro una seconda possibilità di vita, come fece Giusy Pesce, di una delle famiglie più potenti dell'Andrangheta di Rosarno, che per loro cominciò a collaborare. Come fanno sempre più donne, anche in Calabria, che accettano anche di vedersi allontanare i figli pur di aprire loro un destino differente. E per farlo si rivolgono al presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, Roberto Di Bella. Quello che sta accadendo è che nel 90% dei casi le madri, superato una prima fase di contrapposizione anche aspra, avversi provvedimenti, quando si rendono conto che la logica non è punitiva ma di tutela dei loro figli, non si oppongono e accettano i percorsi rieducativi nella speranza, talvolta incontestabile, di sottrarli a un destino al quale non hanno le forze per contrapporsi. Insomma, il paradosso è che i nostri provvedimenti le sollevano dalla responsabilità di scelte educative laceranti nel contesto in cui sono inglobate. Ma via di più, io posso dire che i provvedimenti depotestate hanno involontariamente quasi intercettato un bisogno sociale, che è proprio la sofferenza di queste madri e la loro richiesta di aiuto. E alla fine questo è sempre il punto centrale quando si parla di mafie, gli affetti più profondi. Sono quei vincoli di sangue che hanno nel tempo reso l'Andrangheta la più impenetrabile delle mafie, perché tradire significava tradire il padre, il marito, il fratello. Sono proprio quei vincoli d'amore fortissimi su cui nel tempo è stato poggiato il ricatto, ad esempio, di chi voleva evitare collaborazioni con lo Stato, come è stato per Giusy Pesce e come è stato soprattutto per Maria Concetta Cacciola, a cui facevano sentire al telefono il piatto dei suoi figli per convincerla a tornare indietro, a smettere di parlare con gli inquirenti. Ma sono sempre quegli stessi vincoli di sangue che possono anche determinare all'opposto il cambio di vita, il passaggio dal clan allo Stato, come scrisse Giusy Pesce, che non voleva che il figlio maschio finisse troppo presto sottoterra o dietro le sbarre, come non voleva per la femmina che diventasse già a 13 anni moglie e madre, come era stato per lei. E ora ha potuto dare una vita diversa con altre generalità e soprattutto altre regole. regola ai suoi figli anche una donna che invece era un tempo il capomandamento, decideva vita, morte e miracoli di tutti e trattava a pari grado con boss del livello di Matteo Messina Denaro. Questo era Giusy Vitale, prima che collaborasse e cambiasse tutto, come ci aveva già raccontato in un incontro all'uscita del suo libro Ero Cosa Loro. E allora ecco il suo racconto, con voce criptata, della prima donna capomandamento in Sicilia. Io per esempio mi ricordo di Bagarella. Cioè io quando ho conosciuto Bagarella, che è venuto a casa mia, lui era appena stato scarcerato, usciva dal carcere. Mi ricordo lui perché comunque lui l'ho proprio conosciuto a Deviso. Gli altri sì, li ho conosciuti nel senso da lontano, che capitava che io mi andavo a trovare mio fratello. Invece lui proprio ho l'immagine sua perché l'ho vissuta, cioè era Deviso come Giovanni Brusca. Gli occhi suoi erano come una persona che guardava da un lato però aveva sotto controllo tutto. Magari che veniva una festa come Natale, mio fratello faceva richieste che volevano mangiare pesce. E in quel momento loro erano latitanti, ed erano latitanti dove? Dove si nascondevano? Nella parte di Borgetto, in una casa, in un paese vicino a dove abitiamo noi. Proprio per regola comunque sia, un mafioso che ha un capomandamento non si può non ha quell'autorità di potersi allontanare, nonostante è un capomandamento. Però proprio all'apice di Cosa Nostra ti dicono che tu devi gestire il tuo mandamento, ma rimanendo sempre nelle vicinanze. A lei capitava anche di portare, di andare a chiedere ai suoi fratelli, a suo fratello soprattutto Vito, quando era latitante, indicazioni sulla gestione dei vari affari del vostro mandamento? Sì, qualche volta è capitato. Ad esempio? Sui lavori, magari che qualcuno veniva che ti diceva voglio prendere il suo lavoro e magari già era assegnato e doveva prendere qualcun altro. Allora io magari gli dicevo a mio fratello guarda è venuto pure Tizio perché voleva sapere se poteva prendere il suo lavoro, magari che ne dici, che gli devo dire. Cioè, queste cose sì, a volte facevo le ambasciate da parte sua perché magari lui cercava pure di vedere che persone erano e di non farsi vedere in giro. Quali erano le cose che si controllavano, che voi controllavate all'interno del vostro mandamento? Dico la verità, sono stata io che poi c'è stato un periodo che i fratelli l'hanno sempre odiata la droga, cioè anche al paese nostro non doveva neanche girare. Che loro dicevano sempre che avevano dei figli e non avrebbero mai voluto vedere i loro figli come figli degli altri. Sai come sono i ragazzi che comunque poi non si rendono più conto di quello che fanno. Allora è questa cosa. La droga non doveva girare, però. Rimanevano fuori. Ovviamente, magari avevano gli affari di droga, quelli grandi, ma era come esportazione, cioè arrivava a chi li si vendeva a Palermo. Però nei paesi non si facevano questi traffici. I casi di lavori che vi sono passati tra le mani o di percentuali che richiedevate su questi appalti vari o di lavori edilizi che avvenivano? Vabbè, maggior parte dei lavori edilizi che si sono fatti a parte Nico, cioè pagavano tutti, tutti pagavano il 3% allora dei lavori. Per esempio c'era un libro mastro dei lavori che fa parte del comune, che ogni anno sul libro mastro ti dice che ha la durata di 3-4 anni. Comunque ci sono i lavori che escono, per esempio illuminazione, per esempio strade, qualsiasi tipo di lavoro. E già noi questo qua lo sapevamo anticipatamente quando dovevo uscire sul lavoro, e quindi tu già eri preparata al momento in cui uscisse, sapevi a chi farlo assegnare. Qual è stato l'affare più grande in cui i suoi fratelli o direttamente o comunque sono stati coinvolti per il tramite anche di altre persone con cui lavoravano, con cui avevano contatti? So solamente che una volta mio fratello Nardo è stato fatto da tramite con Giovanni Brusca perché avevano venduto una sofisticazione di vino, che allora si trattava che lui ha venduto il vino grezzo e l'ha venduto una cantina e poi la cantina gli ha ripagato 800-900 milioni, che quelli mi costano a me perché li ho avute nelle mie mani. Poi altre cose, a me mi arrivavano i soldi, però non chiedevo da dove, come, non mi interessava. Erano persone che venivano direttamente a portare la messa a posto? Sì. Non direttamente magari a me, qualcuno l'ha fatto perché ci conoscevamo, però non direttamente a me. C'era una persona che si dedicava al ritiro dei soldi, degli apparti proprio, dei lavori. Lei ha incontrato anche Matteo Messina Denaro? Ho avuto contatti tramite messaggi, biglietti. Che cosa vi scrivevate? Che tipo di messaggi avevate? Vabbè, di solito il contatto che ho avuto diretto io con lui è stato quando mio fratello Vito è stato arrestato, che allora gli ho fatto sapere che comunque se non era cambiato nulla e che comunque la famiglia Vito era rappresentata da me e che le cose proseguivano fino a quando non avevo nuovi ordini dai miei fratelli, in questo modo che lui non si doveva preoccupare perché tutto era rimasto per come era fino al momento dell'arresto di mio fratello, E lui che cosa le rispose? che non avevano problemi. Quindi le mandò un pizzino. Tramite i biglietti, sì, pizzine. Perché lei doveva render conto a lui? Dopo l'arresto di Giovanni Brusca, mio fratello è stato capomandamento di Cosa Nostra, cioè mio fratello ha gestito la Sicilia e una volta che lui viene arrestato, lì ho preso io quel potere. Non è perché Matteo Messina Denaro fosse sotto il mio fratello o mio fratello sotto a lui, ma c'era un reciproco rispetto perché lui gestiva la zona di Castellammare, cioè di Trapani, Castelvetrano, e loro gestivano quest'altra parte di Sicilia, cioè avevano lo stesso ruolo, però conto e ragione si dava sempre a Cosa Nostra. Comunque sia, se lui faceva uno sgarro era una guerra, invece si sono alleati, cioè c'è stata un'alleanza. Cambiano gli equilibri, cambiano anche i nomi all'interno delle associazioni mafiose, ma le dinamiche che portano a scalare i clan sono sempre le stesse e sono gli stessi di cui ora si è tornati a parlare. Se avete segnalazioni da farci arrivare, scrivete a storiacce@radio24.it oppure ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Grazie in regia a Paolo Corleoni. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra.